Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Proseguiamo oggi il nostro racconto della nuova emigrazione professionale italiana. Racconto di un'emigrazione segnata in questi difficili mesi dalla crisi. Crisi che spinge sempre più giovani a lasciare il paese. E dall'Italia, questa è la riflessione su cui vi vogliamo portare oggi, non se ne vanno solo i ricercatori o i professori universitari, se ne vanno pure gli ingegneri. In questa puntata vi racconteremo la storia di due di loro, accomunati da un destino molto simile, quello dell'approdo in paesi anglosassoni e persino dalla medesima formazione. Sono infatti entrambi specializzati in telecomunicazioni, un settore che poco più di 10 anni fa faceva sognare tanti laureandi, anche nel bel paese. Poi l'Italia ha perso drammaticamente il treno, semplificando in modo estremo: i cellulari noi li compriamo, non li produciamo, e così i nostri ingegneri emigrano spesso alla ricerca soprattutto di meritocrazia. Quella meritocrazia che è parte integrante della cultura anglosassone. La prima storia che vi proponiamo è quella di Enrico Cesano, 35enne fleet manager per la multinazionale Veolia a Sydney. Lo abbiamo incontrato a febbraio. Nome: Enrico. Cognome: Cesano. Età: 35. Città di origine: Saluzzo, in provincia di Cuneo. Studi: ingegneria delle telecomunicazioni. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? In Australia. Perché? Avevo bisogno di cambiare aria. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono fleet manager presso Veolia Water Network Services. Dove? A Sydney. Tornerai? Probabilmente tornerò, ma non credo che resterò. Il gruppo australiano Temper Trap con Sweet Disposition, successo internazionale di alcuni mesi fa, ci porta dall'altra parte del mondo per raccontare la storia di Enrico Cesano. Vengo subito al dunque, Enrico, prendendo spunto dalla email che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it. Sono molto contento di lavorare in Australia perché vi ho trovato un ambiente e una cultura rispettosi, organizzati e meritocratici, dove quando semini col lavoro e la dedizione ne raccogli i frutti. Proprio un altro mondo rispetto all'Italia, e le tue parole lo sottintendono. Una domanda te la pongo subito: perché in Australia il merito è una regola sociale e in Italia no? Perché in Australia penso si rispettino le regole, mentre in Italia si cerca di aggirarle. Riavvolgiamo il nastro della tua storia. Ti iscrivi nel 95 al Politecnico di Torino, ingegneria delle telecomunicazioni. Cosa ti porta su questa strada? Fin da bambino volevo fare l'ingegnere, mi piaceva inventare cose nuove, costruire cose nuove. Gli anni universitari scivolano via veloci, anche se, come ricordi, la cavalcata finale verso la laurea si rivelerà molto stressante. A parte ciò, qual è il giudizio generale che dai alla qualità dell'insegnamento universitario in Italia? Io posso parlare solo per il Politecnico, e come si dice, è una scuola che o ti spacca o ti tempra. Direi però che per migliorare ulteriormente la scuola dovrebbe forse pensare di più al dopo l'università e preparare più gli studenti per la vita reale del lavoro. Cambio paese, cambio continente. Il 31 gennaio 2004 ti laurei, un mese dopo il 1 marzo cambi paese e continente, per dirla con Giacomo Lariccia, e atterri a Sydney, Australia. In quei 29 giorni non hai mai pensato per un attimo di guardarti attorno in Italia? Assolutamente no, volevo solo andarmene. E perché hai scelto proprio l'Australia per rilassarti e avviare un tuo personale sabbatico post laurea? L'Australia è un paese piacevole a marzo, quando mi sono trasferito qua, e volevo insomma imparare l'inglese. I primi 3 mesi li passi lavorando come cuoco. Metti nel frigo la laurea, ti godi la nuova esperienza di vita. Allora, Enrico, ci spieghi com'è l'impatto con una realtà estera, partendo da zero? Diciamo, mi piacciono le sfide, e l'idea di sfidare me stesso in un ambiente completamente nuovo e diverso da quello in cui ero abituato a vivere è stato molto molto stimolante. E dopo 3 mesi il primo contratto con EPTEC, azienda italo-australiana di ingegneria civile. Allora, come lo ottieni? Ma soprattutto, provenendo da un paese dove a X laurea corrisponde X lavoro, cambiare settore dalle telecomunicazioni al civile ha rappresentato un dramma? Diciamo che non è stato sicuramente un dramma cambiare ruolo, però diciamo che non era un lavoro puramente tecnico, era più un lavoro manageriale, e l'ho trovato semplicemente con un periodo di prova di 3 mesi. Il tuo ruolo in azienda è quello di project engineer. Tra gli shock culturali, ovviamente in positivo, c'è quello della informalità dei rapporti sul luogo di lavoro, con una orizzontalità gerarchica da noi semplicemente inimmaginabile o quasi. Ci racconti qualche aneddoto? Il primo primo giorno sul cantiere, dovevo andare a un meeting con il capo cantiere appunto, ed ero con il mio superiore e dovevamo incontrare Peter. Ovviamente in Australia la gente si chiama per nome, non per cognome. E a un certo momento vedo questo signore vestito con una camicia scacchi, che da noi la mettiamo solo quando andiamo a camminare in montagna. Tutti gli parlavano come se fosse un operaio, e poi invece questo era appunto Peter, il capo cantiere. A un certo punto il proprietario dell'azienda, soddisfatto del tuo lavoro, ti convoca, ti propone un allungamento del contratto, ti offre persino una sponsorizzazione per il visto di residenza temporanea. Quanto tempo ci pensi prima di dire sì? Ma non ci penso niente, non ci penso per nulla. E in questa azienda ti fermi fino alla metà del 2009, ne conservi ancora un ottimo ricordo per almeno due motivi. Il primo è legato alla meritocrazia che si respirava. Allora spiegaci come funziona un sistema meritocratico. In Italia se ne parla troppo e non lo si realizza mai, visto e vissuto dal di dentro. La tua performance viene misurata secondo diversi criteri, e in funzione della tua misura ottieni più stipendio, ottieni un lavoro migliore, ottieni dei privilegi che altri non hanno perché non hanno raggiunto il tuo stesso livello di performance. Non conta essere simpatico, non conta fare parte di cordate interne, basta lavorare bene. In secondo luogo, considerando la tua giovane età, fa impressione il grado di responsabilità ai progetti in cui ti trovi coinvolto. Sicuramente in Australia non si fanno problemi a darti responsabilità, sentenzi con ironia. Vogliamo dare un'idea ai nostri ascoltatori? Diciamo che mi ritrovavo ogni giorno a firmare per approvare acquisti di decine di migliaia di dollari senza che nessuno controllasse cosa stavo facendo. Quello per me era responsabilità. Un anno e mezzo fa ti licenzi da Eptech e firmi un contratto di lavoro con Veolia, una grande multinazionale francese. In Australia il lavoro è una scelta che fai continuamente, è inconcepibile essere scontenti del proprio impiego o andarci per forza. E anche questa voglia di cambiamento e miglioramento che ti porta a fregartene alla fine del posto fisso. In Australia ci sono due tipi di lavoro, quello che chiamano casual o quello che chiamano permanent. La differenza con l'Italia è che quando sei casual, quindi quando non hai un lavoro fisso, anziché essere retribuito in maniera minore, vieni pagato intorno al 20% in più. Ovviamente questo fa sì che il datore di lavoro abbia tutti gli interessi a farti passare come permanent, perché in quel modo lì ti paga di meno. As simple as that, potremmo riassumere all'inglese. Per 6 mesi lavori come project engineer, da poco più di un anno sei fleet manager. Vogliamo raccontare a questo paese gerontocratico e immobile cosa fai a soli 35 anni per la tua azienda? La mia azienda usa la migliore tecnologia disponibile nel mondo a livello di tutto l'armamentario per fare il lavoro con le infrastrutture dell'acqua. Quindi il mio compito è praticamente quello di ottimizzare e massimizzare il livello di performance di questi veicoli, e inoltre mi occupo di appunto cercare le nuove tecnologie in giro per il mondo, in Giappone, in Germania, in America. Tu in Australia hai lavorato a lungo con un permanent residency visa che ti qualificava come skilled migrant, immigrato qualificato. Quanto è vincente la ricetta australiana di puntare sui cervelli, sui talenti stranieri per far avanzare il paese? L'Australia ha il grosso pregio che ha strutturato la possibilità di entrare a far parte dell'Australia come permanent resident o come australiano in base ai tuoi meriti di nuovo. Quindi se tu sei un ingegnere che opera in un settore di cui c'è bisogno, ti danno visto. Enrico, come si guarda dall'Australia le resistenze che le corporazioni, gli ordini, ad esempio quello degli ingegneri, fa verso una maggiore apertura del mercato, apertura ai giovani e liberalizzazione? In Australia liberalizzazione, maggiore competizione, deregolamentazione sono tutte cose estremamente positive. E la chiusura al mercato italiano come la vedi tu? Secondo me è una mentalità decisamente vecchia che va superata, altrimenti non terremo mai il passo con gli altri stati. In Australia non conta da dove vieni o chi è tuo padre, l'Australia è un paese giovane con un mercato del lavoro dinamico che dà fiducia ai giovani e rispetta i meno giovani. Qui si progetta il futuro con ottimismo, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Enrico, sembra l'Italia ma al rovescio. Quali blocchi dobbiamo superare per tornare a crescere? Quello che manca all'Italia sono delle regole semplici, poche, ma che vengono rispettate da tutti. Regole che possano essere la giusta base per un sistema competitivo. La competizione è quello che può far migliorare il paese. In Italia purtroppo la competizione è completamente sballata perché si basa su favori, su conoscenze e non su regole e sulle performance. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? In Italia si cercano diritti, non si cercano meriti, e questo secondo me è quello che deve assolutamente cambiare. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Puntata quella odierna che ha per protagonisti i nostri costruttori di futuro, emigrati, gli ingegneri. Dopo aver ascoltato nella prima parte del programma la storia di Enrico Cesano, ingegnere delle telecomunicazioni a lavoro in Australia, è il momento di passare a raccontarvi la vicenda di Mario Neri, 28enne ingegnere delle telecomunicazioni a Londra. Abbiamo incontrato Mario a novembre. Nome: Mario. Cognome: Neri. Età: 28. Città di origine: Livorno. Studi: ingegneria delle telecomunicazioni a Pisa. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Francia, a Parigi. Perché? Per fare una tesi in azienda. Quale lavoro svolge attualmente? Ingegnere per la gestione dello spettro elettromagnetico. Dove? A Londra. Tornerai? Se avrò la giusta opportunità. Planet Funk, Stuck in the UK, per introdurre la storia di Mario Neri. Mi manca l'Italia, sì, per innumerevoli motivi, ma quando mi confronto con i miei coetanei rimasti laggiù, che devono sempre vivere a casa coi genitori perché un affitto ti prende il 70% della busta paga e che devono sperare di entrare un giorno nelle grazie di qualcuno per ricevere una promozione o avere la possibilità di affermarsi, beh, ti dico Sergio, credo che l'Italia sia fatta per venirci in vacanza, non certo per lavorarci. Questa è la tua amara denuncia in una email a giovanitalenti@radio24.it. Tanti altri ci scrivono usando le tue stesse parole, c'è persino chi lancia un appello a non tornare. Cosa vi tiene lontani da questo paese, il vostro paese? Sinceramente credo che l'Italia sia un paese che adesso non valorizza un giovane che ha la voglia di fare. L'indipendenza dalla famiglia è un prezzo troppo alto da pagare, quindi se non hai il giusto lavoro non lo puoi fare. Iniziamo dai tuoi studi. Ingegneria delle telecomunicazioni all'Università di Pisa, in realtà una scelta più imposta che voluta dal contesto in cui vivevi. Quanto influisce la laurea sicura o ritenuta tale nelle scelte di un 19enne? Influisce molto, perché dipende dal percorso di studi che vuoi fare, potrà influire sul tuo futuro. A quel tempo ero influenzato da tutti quelli che possono influenzare un 19enne. Cioè la famiglia, gli amici, i professori del liceo che mi dicevano vai a fare la laurea in ingegneria perché ti darà un lavoro buono e sicuro. Nel 2005 la laurea triennale e rifiuti una prima occasione di lavoro presso una multinazionale italiana che offriva uno stage, o termine curioso, un periodo di fidanzamento per 400 euro mensili. Scegli di completare gli studi con la specialistica anche per poter aspirare a qualcosa di meglio, e il fatto curioso è che nel frattempo i tuoi amici stavano cominciando a laurearsi. Cosa succedeva? Andavano a lavorare generalmente per aziende di consulenza per uno stipendio intorno alle 800-900 euro al mese in città come Roma, ma soprattutto Milano, soprattutto al nord, e mi dicevano tutti guarda, cerca di non fare la stessa cosa perché non arriviamo alla fine del mese. Ti sorge dunque il legittimo sospetto che forse l'Italia non faccia per te. Con l'appoggio di un professore riesci a partire per la Francia, una tesi in azienda a Eutelsat, uno dei colossi delle telecomunicazioni satellitari. Siamo nel settembre 2007 e allora scopri una realtà che non ti pare vera. Stage attribuito a 1000 euro, esattamente quanto prendevano i tuoi coetanei assunti in Italia. Incredulo, chiedevi lumi ai responsabili risorse umane. Cosa ti rispondevano? Mi capitò una volta di parlare col direttore delle risorse umane di questa cosa e mi diceva beh, il fatto che tu faccia lo stage non vuol dire che tu non lavori, imparare non è una colpa, quindi anche se stai imparando stai contribuendo alla nostra azienda e questo è un minimo contributo che ti diamo in cambio. Incredibile, eh? Quante volte sentiamo questi discorsi in Italia? Vabbè, a quel punto sei molto vicino alla laurea, arriverà nel febbraio 2008. Apriamo una breve parentesi sull'istruzione universitaria ricevuta in Italia. Pollice in su o pollice verso? Decisamente pollice in su. Questo purtroppo, dico purtroppo perché non siamo valorizzati secondo me per questo, ma è una forza che abbiamo in Italia. La nostra istruzione è ad altissimi livelli, ci dà un'apertura mentale che tanti nostri coetanei in Europa non hanno. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Dopo 4 mesi di stage per evitare l'incubo di tornare tra la mischia dei disperati e avendo assaggiato l'estero, cercai di rimanere in quell'azienda. Ci riuscii firmando il mio primo contratto a tempo indeterminato ancora prima di essermi laureato. Lo stipendio propostomi mi consentiva una vita normale a Parigi. Non potevo chiedere di meglio. Insomma, il tuo goodbye malinconia o goodbye Italia è stato prima voluto, poi dovuto, perché il mercato del lavoro italiano è, parole tue, un disastro. Mario, perché siamo la serie B dei talenti? Perché non li valorizziamo, tutto qua. Se c'è qualcuno in gamba, non gli vengono in genere date gli strumenti per andare avanti. C'è la convinzione che il giovane debba sempre fare la gavetta, ma purtroppo la gavetta forse dura a volte fino a quando uno è quarantenne. A Eutelsat resti 3 anni e mezzo, che ricordi positivamente. Viaggi per i 4 continenti, vivi in un ambiente internazionale, cresci professionalmente, ma soprattutto capisci che non avresti potuto trovare un lavoro simile nel tuo paese, almeno da giovane professionista. Perché in Francia sì e in Italia no? Fondamentalmente perché in Francia, ma anche negli UK, come sto sperimentando qua, c'è la convinzione che il giovane che esce dall'università non è un peso morto per l'azienda, ma dei valori, e se viene messo in un territorio favorevole li può far venire fuori e può essere di grande aiuto all'azienda per cui lavora. In Italia non c'è questa convinzione, quindi scappiamo. 9 mesi fa lasci Parigi, ti trasferisci a Londra, l'hai appena detto, per lavorare presso Inmarsat, un altro operatore satellitare. Come sei stato assunto? Per selezione, curriculum e soprattutto di cosa ti occupi? Sono stato assunto soltanto per selezione e curriculum, ho affrontato 3 colloqui. Che bello sentirlo, che bello. Sì. Decisamente, sono contento di aver superato la selezione e adesso rappresento la mia azienda per quanto riguarda tutto ciò che concerne lo spettro elettromagnetico. Cercando su internet mi sono imbattuto in una storia un po' strana, è quella di un'azienda che cercava ingegneri delle telecomunicazioni e dice: da 5 mesi li cerchiamo ma non troviamo nessuno. Dopodiché ho letto i commenti a questo articolo e devo dire si intuiva un'altra storia. Ad esempio, quell'azienda mi ha chiamato per propormi lavoro come drive tester, un lavoro che può fare chiunque, non un ingegnere, oppure in Italia assumono con stage di 6 mesi a 500 euro mensili. Alla signora forse interessano ingegneri rappresentanti che vendono telefonini. Gli ingegneri progettano. Mario, anche gli ingegneri, i progettisti di futuro, scappano da questo paese? Sì, decisamente. L'ingegnere è stato formato per progettare, non certo per fare il rappresentante o per fare il test. Sono d'accordo con i commenti che hai ricevuto e secondo me è una cosa grave. Se gli ingegneri di qualità scappano dall'Italia, poi chi ci rimane? Lo vediamo forse da quello che succede in questi giorni, chi ci rimane. Mario, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambia? Resti e come? L'Italia dall'estero, sono un po' preoccupato per l'Italia dall'estero personalmente parlando. L'Italia è piena, secondo me, di giovani che hanno voglia di fare e di mettersi alla prova, ma purtroppo, secondo me, l'Italia è dominata da una classe dirigente ultra sessantenne che non valorizza i giovani. C'è questa mentalità di un'Italia dove si pensa che il giovane debba sempre fare la gavetta e non gli si danno le opportunità per fargli aprire le ali e magari spiccare il volo. Prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto diretto e aperto con i nostri ascoltatori, rubrica che ci accompagna per tutta l'estate. Per cominciare vi ricordiamo subito il nostro manifesto dei giovani talenti, che resterà aperto e sottoscrivibile online fino a metà settembre. Siete tutti invitati a contribuire via web. Inviateci le vostre proposte per rendere l'Italia un paese di circolazione dei talenti. Sei un giovane professionista under 40 all'estero? Indicaci un motivo che ti porterebbe a tornare. Oppure sei un giovane professionista under 40 in Italia? Allora indicaci un motivo che ti aiuterebbe a restare. Inviateci le vostre idee specificando il paese di residenza e nell'oggetto della email manifesto a giovanitalenti@radio24.it. In autunno renderemo note le migliori proposte online e on air. E quest'estate vi proponiamo anche alcune delle migliori lettere pubblicate sul blog ufficiale di Giovani Talenti in questi ultimi mesi, cui potete accedere dalla pagina internet radio24.it. Oggi vi proponiamo la lettera di Massimiliano, nostro ascoltatore e insegnante di un liceo nel sud. Ascolto con piacere la vostra trasmissione il sabato mentre torno da scuola. Sono insegnante di lettere in un liceo scientifico in provincia di Lecce e vi confido che ho consigliato spesso la vostra trasmissione ai miei studenti, soprattutto per un orientamento lavorativo. Ma ogni volta che vi ascolto, ho un profondo magone e tristezza per quel suicidio collettivo che in Italia si sta perpetuando da anni, istruendo giovani capaci, motivati e competenti, per poi regalarli alle altre nazioni. Quanta tristezza ho nel vedere molti miei studenti bravissimi, impegnati e motivati, pensando che un giorno essi arricchiranno un altro paese. Allora mi chiedo: che ci stiamo a fare noi docenti in Italia, che spesso lavoriamo con passione nella speranza di ridare un futuro dignitoso al nostro paese? Mi piacerebbe far ascoltare la vostra trasmissione in prima serata su molti canali televisivi, perché ascoltando i nostri giovani all'estero si sviluppi nel nostro paese una riflessione profonda. Un secolo di vergogna per la gerontocrazia, per i baroni, per le caste, e poi finalmente scoppi la primavera della meritocrazia. Sarà il sogno utopico di un docente arrabbiato con i propri cittadini, ma pieno di speranza nei giovani che ogni anno accoglie a scuola come bruchi, brufolosi e impacciati. e poi li vede spiccare il volo come farfalle dai mille colori. Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Veniteci a visitare sul gruppo aperto all'interno del portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti. Soprattutto non dimenticate di visitare il nostro blog ufficiale aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Qui postiamo le lettere, gli spunti e le riflessioni che ci inviate settimanalmente per email. Giovani Talenti rilancia infine la campagna d'estate. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nei prossimi mesi. Se siete under 40, espatriati nei più svariati settori professionali per vedere riconosciuti merito e competenza all'estero, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo le vostre lettere. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.